doppio ruolo o il Capri 2? Capri 2. Il signor Capri 2 di Super Salute ha scelto uno pescito. Mamma di positivo, quando l'hai sentito? L'hai cambiati tutti, eh? Tutti. L'ho sentito un'oretta fa. Infatti mi ha detto che non ti aveva più sentito, di me se ti sentiva di mandarti saluti. E così è confermato, è scelto, pescito. Capri positivo, ricambiati tutti al 100 al buon Capri 2. E niente, io anche la mattina sono fuori, e niente, poi sia che in uscita che in entrata provo a far chiamata, ma negativo, questo periodo negativo. Positivo, perché la sera presto la mattina. Anche avantieri ero giù a Cagliari alle 5 e mezzo, ho provato a far chiamata, ma silenzio totale nelle nostre zone. Mi sembra strano perché io parlo, si può dire, tutti i giorni presto. Ma ho provato sul 5 e sul 10 e niente, ho provato a far chiamata, vabbè, era presto e sono state le 5 quando sono rientrato e niente, ho sentito di sfuggita Vulcano, io ero fermo a Marrubiu e lui doveva essere lì già nella zona d'Oristano. Ah, ecco, per il positivo, bene, vedi, siamo sentiti. Con tutta quella pianura lì hai voglia a saettare i segnali. Su. Bella gara. Stiamo cercando Domenico, non so se sia partito, se non è partito ancora. Ma io non l'ho sentito, tu lo dovresti sentire meglio di me, sicuramente. Adesso provo a rilanciarlo, se sta partendo, se non è partito, vieni avanti Domenico! Grande, mi sono licenziato da non si può. No, lì sto mollando domani, faccio tutta la giornata, e niente, rientro col vecchio principale, diciamo, mi ha telefonato, sono 3 anni di lavoro, così mi ha garantito, e niente, io per un mese non mollo 3 anni di lavoro, capito, e rientro a quello. Campa di positivo, Antonio, l'importante è andare sempre avanti, perché ti ripeto, rimanere fermi assolutamente. No, non esiste proprio Giuseppe, assolutamente, no. Poi da lì entro in un'altra impresa dove lavoravo ancora prima di entrare da quello che sto lavorando, che dovrei entrare adesso. Vuol dire ce l'hai buono il giro, Antonio, già va bene. Ma sono stanco, oggi sono stanco a pizzi. Ti credo, Anto, chi lavora ne ha ben donne di essere stanco, ci mancherebbe. Cava, vabbè, è importante che sia lavoro, che poi già si mette tutto a posto, va, non c'è problema. Io ho un amico che fa il tuo stesso lavoro, ma è già un paio di mesi fermo, figurati, ed è quando sei a casa ti distrugge. Sì, lo credo bene Giuseppe, aspettiva, stare fermo non va bene, specialmente chi ha famiglia, o anche chi non ne ha, perché è scosciante lo stesso stare fermi. D'accordo con te al 100, ci mancherebbe altro. Purtroppo lo sai cos'è, Giuseppe, che i soldi vanno ogni giorno, si spende ogni giorno, e guai se mancherebbe lavoro, guai al mondo. E infatti, ecco perché io dico, cavolo, chi ce l'ha, anche se molte volte siamo i primi sempre lì a protestare, uffa qui, uffa là, ma questo, ma quello, bisogna tenerselo conto, altro che scherzi. E così è, Giuseppe, mannaggia, stiamo percorrendo un periodo molto grigio, molto ma molto grigio, e secondo me stanno peggiorando i tempi. Me ne sto accorgendo anch'io, dice che la crisi era l'anno scorso, mi pare che la crisi sta iniziando. Cava. Uia, cosa si vuol fare? Speriamo di uscirne fuori, Anto, in una maniera o nell'altra. Non finirà questa situazione qui, perlomeno io mi auguro. Io stesso, io mi auguro quanto ti auguri tu e quanto si augura molta gente che ha bisogno. Che volevo fare? Pacisce, bisogna avere pazienza e pazienza, ma solo di pazienza non si può vivere, purtroppo. La pazienza non è che te la puoi fare col panino, non è che la puoi mettere nel piatto, non è che a tuoi figli magari quando arrivi a casa non dici ho fame, pazienza. Non è così che funziona, Maurizio, non è così, no Giuseppe. Ho sentito al telegiornale la storia delle cementerie, gli hanno dato il colpo di grazia. Chiuse, adesso devono smantellare tutto. Yes. Figurati, adesso lo stanno portando lì dalla ECA, hanno trasferito tutto lì nel Cagliaritano, figurati. Ma è da male in peggio, se mandiamo, da male in peggio. E infatti, non solo di, come dicono, no, di creare i posti di lavoro, stanno chiudendo. Ma infatti io l'altro giorno sono passato, ci sono già i cosi, stanno demolendo tutto, adesso devono buttare giù i forni, dopodiché è un gioco da ragazzi. Già andiamo bene, già stiamo andando bene, per carità, e quella è la cementeria, è una cosa che funzionava, guarda, alla grande, e poi per pianino è andato, diminuendo, poi facevano i saccavano soli, adesso hanno risalato tutto. Ma io mi ricordo, Anto, quando ero ragazzo, ma lì, la gente, allora era un buon posto. riusciva a entrare lì, aveva fatto Primiere Settebello, ma era un traffico continuo lì, entra e esci di camion. Mi ricordo quando si passava lì, guardai sempre quei piazzali pieni di camion andando e tornando. E infatti se tu lotti lì c'è anche la quella specie di casa fatta a schiena, dai, vicino alla scala di gioco, proprio di fronte, quella era la casa di chi lavorava lì, capito? Degli operai. Adesso nelle facciate in grande hanno messo vendite. Beh, sapò. Beh, le avevo dato lo sprat a tutti, per carità, mannaggia, ne ha sempre andati lei, guarda, io a me solo il pensiero mi vengono i brividi, guarda. Lo so, Antonio, lo so, però un altro pezzo di storia che se ne va quello, però quello dispiace anche a me, mannaggia. Non è solo quello, anche a Porcottone sta diventando macello, per carità di Dio, guarda, già ne stanno chiudendo poco, ui. Sì, quando non scoppia la bomba e poi quello che ci prendiamo. È vero. Guarda che io penso che non passerà molto a scoppiare la bomba, perché lì, guarda, se continueremo questo passo qua è un macello, è veramente un macello. E non c'è cosa peggiore quando c'è la popolazione che è in subbuglio, quando c'è malcontento, quando c'è malessere, tutte quelle cose lì, secondo me è una bomba orologeria. Sì, Giuseppe, e confermo le tue parole sacrosante, quella è una bomba a orologeria, il giorno che scoppia vedrai cosa succederà. Perché poi non hai, che smocchi hai? Qui che smocchi hai? Tu vada a Porto Torres e ritogli da Fiume Santo, dall'Enichem, da cosa fanno questi qui? Nulla, nada, niente, perché prendiamo anche la Senara, prima c'erano le carceri, c'era lavoro per tutti più o meno, avanti, già la Luisero Matesse, via, tutta carriera, insomma, guarda, è un caos totale. E non è come continente, magari ti siedi in macchina, sai, passi da una regione all'altra e bene o male un pochino di coso ce l'hai, no? E qui cosa fai? E ti giri, cazzo, beva, guardi a destra e c'è acqua, a sinistra e su e giù e tutto quanto eva. È vero, si conferma, avere la fame si taglia a fette, c'è la fame si taglia a fette. Tu pensa che io mi faccio le 8 ore in cantiere, ma lo sai quanti ne vengono? Pure bignetti lì, pure per farsi una settimana di lavoro per portare in campo alla famiglia, credimi Giuseppe, bignetti. Purtroppo, guarda che noi abbiamo tirato su una palazzina in 2 persone, ma ti rendi conto Giuseppe, in 2 persone, perché il titolare non voleva prendere altro personale, ma io a che punto stiamo arrivando, vai. Lo so Anto, e per quello già sta facendo bella fine l'edilizia, Si ferma l'edilizia, si ferma tutto. A Domenico, come mai sei così piccolino Domenico? Mica, aspettando me, a quanto ho chiamato un sacco di volte. Comunque Domenico, se mi vai copiando tanti che saluti, cordialità come sempre da parte mia, buon trabacco e buon tutto. Cappa. Tanti mando il tabacco e buon rientro, da parte sua. Dappa, ci sentiamo al ritorno, dai. Tutto al ritorno, Domenico, ciao. Di contraccambio, saluti Domenico, Giuseppe. Appena mi si muove il lago dello Smitter, proprio come coso nero, non ho sentito manco una sillaba. Gava, gava, ma lo stai usando le cuffie? No, no, negativo, facchi. Che se usi le cuffie senti i segnali piccolini, capito? Cappa. Io, infatti, se tu non vieni come sono, sono con le cuffiette. Gava, gava, quindi hai freddo orecchie. No, le metto perché molte volte, hai ragione tu, se non metti le cuffie, senti molto il QRM, perché oggi ce n'è parecchio, di QRM, e non senti segnali bassi. Allora, io mi sono comprato, la verità circa 5 euro, non me ne vergogno, un paio di cuffie lì dai marocchini. Li metto, quando voglio sentire i segnali bassi, metto le cuffie, guarda, vado alla grande. Cappa di positivo. No, io è giusto per non alzarmi. E tanto guarda, io altri 10-15 minuti e poi mi arrivo tutto quanto con la coda che striscia per terra, nanna. Ciao Giuseppe, ti credo. Voi siete domani a fare presto, Giuseppe, così. Trabacco purtroppo è così, bisogna alzarsi, andare, mannaggia, potevamo nascere ricchi, cavolo. Papà, se ero nato ricco avrei fatto lavorare i poveri, questo è poco ma sicuro. Ah, io appoggio lo stesso, Ui, ui, ui, ui. No, dico appoggio il tuo pensiero. Papà, allora è perfetto. Non prendere fischi per fiaschi. Sorbo le crosti denti. Purtroppo è così, Giuseppe. Babbo, io cosa vuol dire? Si tira la baracca avanti, nel bene e nel male, si cerca di andare avanti. Avanti la maremma, gamba. E dai, ciao Giuseppe, ciao tutti gli amici. Doppio rum, avanti. No. Tutti gli amici, sempre tu, sempre. Buonasera Gianni, mi hai sentito, mi hai trovato cordialità, cappa di cappa. Tu pensi, Falche, chissà quanti ce ne sono all'ascolto. Io, vabbè, ma quelle posso chiamare orecchie di porco io. E perché? Anch'io lo stavo facendo, stavo ascoltando anch'io da tanto. Mi piace anche ascoltare, perché era il computer, avevo le cuffie e stavo ascoltando nel mentre che facevo i lavori al computer. Chiama di noci. Da me. E poi ci sei tu. Avanti, signor Vera. Buonasera a tutti. Buonasera, anche lei, ben entrato. Buonasera Vela, buonasera mannaggia, ben sentito, gappa gappa. Sì, signor Giuseppe, sto facendo il latitante. Mannaggia, Pierpa, hai ragione, hai perfettamente ragione, però mi hanno mezzo massacrato questa settimana, e domani compreso. Gappa, ti ho proprio una cosa oggi. Tu sei veggente, sei veggente, Giuseppe. Sono qui per questo. Già, secondo te, che tipo si stava girando a me, fino a la mia teoria. Perché il discorso di quella gente lì, lo sai com'è, caro Pierpaolo? Che una persona saggia che ho conosciuto tanto tempo fa mi ha insegnato una cosa e mi aveva detto: Giuseppe, ammettato una cosa, chi si ruppo, si buoni, rabbetti, dagnoni, sempre ruppo rimane. E così è con la gente lì, perché quando sono in branco sono ben forti, quando li trovi da solo, poi a pensare in mutande ha già fregate, me ne tiro case senza togliergli manco i pantaloni. Ciò dimostra che non hanno, è gente che non ha palle, gente che buona a scappare quando ti vede arrivando. Invece fermati, mi affronti come quando sei con quei quattro caichi, perché poi non è mica, era tutta piccionaia mi, Pierpa. E infatti lo facciamo anche con i cacciaffi, a chi fa dei brutti figuri, no, ancora non mi riuscito all'altro. Ma già si trova per pacca, allora se si trova. Yeah. linea di latte oggi. Buonasera Mario, buonasera, mi ha sentito K in compagnia del Falchetto, del Bombolo, del Vela e del Doppio Rum, vada per chi vuole, lei. Io ho detto buonasera a tutti per non sbagliare con i nomi. E poi io non ho preferenze, per me uno vale l'altro. Facciamo pigliare dal capo stirpite, nonché da Vela, che è il più vecchio. Oh, Dio, cazzo, si rapia, non vuoi dire che è vecchio, diciamo avanti, avanti con gli anni, va? No, no, Mario, io sono vecchio, lo ammetto, anzi io lo dico, sono vecchissimo, però lo ammettete anche voi. Cappa, ma noi ci seguiamo a ruota, mi. Non è che ci tiriamo indietro, ci seguiamo a ruota, Vela. Tanto per esempio io siamo io e Giuseppe, due, e Gianni Doppio Rum siete vecchi. Se sono da radio si convinse me, bebè. Avvero. Avvero, ti la gente può convinci male che siamo uno dei più vecchi, no? Ma io non mi sento vecchio, per fare interessante sentirsi giovani dentro. Gianni, rispetto la caldura ti ha messo una copertina. Ho detto, l'interessante è sentirsi giovani dentro, poi se anche se uno è vecchio come te, non deve abbattersi. No, no, no, no. Mi spiace, ma io sono più giovane. Io e Giuseppe siamo i più giovani qua adesso. Tu e Mario siete più vecchi. Di cappello, ma tu che sei più giovane di me, ne dubito affatto. Ma l'ha detto pure la radio. Ma attesa, io Giuseppe ho detto siamo i più giovani. La identità alla mano. Ma io, avanti, io sono del 62. Uno. Io del 63. Falchetto, balza fuori? Sì, sì, io sono balzato fuori e confermo. Anno? 6-2. Cappa. Tutti, Giuseppe, tutti che se nascondono la diana. Intanto non ve ne rubiamo, me, ve li tenete. Cappa di positivo, mannaggia. Oh, nel mio c'è poco da sbagliare, mi. 3-3-61 e non ne conto più a nessuno. Gappa, gappa, dai. Sì, sono, diciamo, 10 anni più piccolo, ma non sono gli anni che fanno la differenza. Lui già, tutto il resto già macina bene me ancora, Giuseppe. Cappa di positivo, io ne dimostro 48. Noi dobbiamo festeggiare un giorno. Quale? Il 3. Ah, cappa, sì, io la mia data di nascita è facilissima, 3-3-61. 3-9-62. Su che andiamo? Ecco perché ti sto dicendo che dobbiamo festeggiare il giorno. Cappa, allora si festeggia la grande sabato. Io 4-9. 4-9? È un giorno dopo di lui. Ah, Svettina, crocro. Allora, io sono 5-9. Oh, alla grande, Giuseppe. Ma io mi sono prendendo un treno? Cazzo, 3 settembre ci sono qua. Brava, gava. Gappa. Allora, mezzo, Come e mezzo? Se sei 3, 4, allora, ha detto 3, io 4 e tu 5. Allora sei tu in mezzo. Allora Mario è più piccolo. Ci voglio un brindisi Simo. Come mai ci hanno fatto 4 per sorprendere? Mario Topoli. KK, fai ma guarda che con quell'altro Giuseppe ci conosciamo senza esagerare quasi 30 anni via con la batteria. Lo so Mario, ma c'è in gamba Giuseppe quello che stai dicendo tu. KK, no, sono tutte e tre in gamba, sia dal più vecchio al più piccolo. Confermo al 100. KKK, fate un attimo di bianco, ma con rosso, ti faccio dei giudini, no? Non si sa mai che da prima che ci danno un libro, gli venditi. Pierpaolo. Dico sì. Circa mezz'ora fa, 35 minuti fa, abbiamo fatto il collegamento con la costa ionica, né? Dove? Sul 4-5. K di Roger. Si è arrivato. K. C'era il tipo, sembrava quello che mi ha fatto sin diritto nel computer. Che fosse un nome così e mi ha agganciato subito perché stava facendo chiamata e si sentiva uno a me arrivava Santiago 2, ma proprio lo sentivo, riusciva a tirarlo fuori pio pio. Ho provato a fargli chiamata io e mi ha agganciato subito. Cappa, 9 più 20 qua da me, 9 più 20, poi quando diceva sul binario 4.5 la costa ionica fa chiamata K di Roger, però lo tirava un veicolo, cacchio quanto girava. Che devono passare quando c'è la propagazione. Ma è vero che ho con tre assi. Kappa, ma con tre assi c'è una bomba media barba. Con tre assi? Che via Milano passa e non l'alta. Figurati tu. C'era la Mercedes tanto tempo fa, adesso ce la dico, mi pare. Positivo, dai. Quel pezzo lì mi sono fermato per sentirlo bene, arrivava, quando mi sono fermato arrivava una bomba, poi da fermo. Lui era una cosa che ha cambiato il segnale, dice, Cascita se ti ascolto, dai, super. Kappa di positivo. Io poco fa sono uscito proprio, poi c'era anche, entrato anche Falchetto, ma ti dico proprio chiara, è come che fosse qui a Sassari. Non mi ricordo altro, però ve ne è uno che chiamato con la voce e con l'eco. Voi quando l'ho chiamato gli ho detto la Sardegna ti fa chiamata. E avanti l'isola della Sardegna, caro, va a casa, non finiva mai, non finiva mai poi con quella voce rauca. Lo sai come che cantava lo Smither qui? Sono spostato al 10 là. Dove sul 10? che saluta tutta la rotta e tutte le migliori. Marchetto chiude le trasmissioni. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Alle 5 e mezzo ti faccio chiamata e come porto la barra fuori, dai, ci sentiamo alle prossime e bolle 144, avanti Gianni. Ciao Farkit, buonanotte, avanti Antonio. Buonanotte, ciao. Mario Ambisese. Ciao. Ciao, perché buon quarantino, buon tutto, ci arriviamo alle prossime sequenzine, gappa. Comunque Poccanti è entrato Lando e non avete dato manco il tempo di salutarlo. Va bene lo stesso, là, non proseguo, io vado a caricare, tanto vi ascolto. Mario, ciao e buona carica, avanti Vera. Ciao e buona carica. Mario, buona carica. Ivan. Che ha detto che stava cercando di entrare, non abbiamo dato il tempo. No. Lando, boh. Lando, Adriano, scatta, non conoscete di Adriano, boh. Io l'ho sentito, io l'ho sentito. Negativo. Nemmeno io. Scatta, mi ha dato la battuta. Adesso mi dovevano mettere il cappello e non ha sentito nessuno. Sì che l'abbiamo sentito, l'abbiamo anche salutato. Però ha detto che stava andando a mettere in carica le batterie. Vado là. Non ho detto niente. Scusami, sì. Ma quando mai? Ma chi sei mosso? Sono qua in ascolto, ecco, ho fatto solo la battuta del cassetto, quello che ho parlato. Buonasera a tutti. Vabbè, ma quando uno entra, dà il tempo a me di salutare, e invece poi parlando di una cosa e dell'altra, niente. Comunque, buonasera Adriano e ben sentito. Cappa, vai Giuseppe. Cappa, grazie Mario, buonasera Adriano, ben sentito e cordialità. Avanti il doppio room. Ciao Adriano, buonasera, io ti ho già salutato, non so se mi avrà sentito. Sì, io ho salutato qui naturalmente, ho fatto via qui. Avevate un mostro questo, io e basta, ho fatto la parte finale. A Mario, e basta. In ascolto. Mi piace ascoltare, a volte è bello. Allora, ma anche io poco fa ero al computer, stavo ascoltando mentre facevo quello che dovevo fare. E poi sono entrato, come uno spettro sono entrato. Più che altro non ho iniziato un qualsiasi, ho sentito che c'era gente di malumori. Qui ci stiamo spassando, siamo due valenghi. Ciao Valengo. Va amicaccio, questo mi sembra mezzo ricchione. Ciao, cambio. A me mi fa corruzione, sei tu. Attenzione, attenzione, qua l'amicaccio con la voce da donna, da gringhellina, faccio un'operazione alle corde vocali. Cacchio! Stai dicendo Lucy? Reducato. Ma cazzo! Sono tra di loro, secondo me, stanno sfottendo. Dici, vero amicaccio? Attenzione all'amicaccio che parla delle corde vocali della gringhellina. Avanti, ritrovate. Ma per caso ti conosco? Sei Diego. Non so se mi conosci. Io sono doppio room, tu chi sei? No, no, con lei, no, mi cazzo, stavo dicendo a questo con la voce da signorita. Zitto, coglione. Non si come parolarci. Con chi stiamo parlando? Chi è l'amico che stava parlando adesso? Sappiate che questo canale era occupato, se volete entrare in ruota siete ben accetti, se no vi salutiamo. Avanti di nuovo. Ok, qua ci spostiamo, facciamo un po' al binario 15, dai. Ringraziamenti amicaccio, ciao vai. Vai, 15. Ciao, ci sentiamo, dai. Buona permanenza. Ok, avanti per pace. Dai va, saluti, saluti. Sono non vedi che stavano sfottendo tra di loro, se qua ne sono in camper. Fai il zingai. È vero, perché mi hai messo a provare il zingaro col bambino? E ce l'ho abituati in mano. Ah, sono abituati. E ti sei fatto anche la storia della macchina di mia moglie? Di un'amica ce ne stava mandando, cioè dai trattenetevi, non venite mai, sembrava quasi che fosse, diciamo, ne volevo andare, e mia moglie mi diceva e dai, alla fine vabbè, restiamo, ci siamo tornati Gesù e c'era lo sportello della macchina piegato, ma nella nostra c'è tutto cruscotto della macchina, tutto qua. Un secondo, vai. Vado a fare una carichetta e poi niente. E la mattina la sveglia è presto, vai. Ci sentiamo alle prossime. Buon proseguimento di QSO a tutti voi. Chiudo le trasmissioni qui, dai, perché poi dopo la carica riprendere di nuovo mi viene un pochino male, dai. Ci sentiamo domani, dai, faccio chiamata come sono di nuovo qui nelle nostre coordinate al rientro, se trovo qualcuno è bene, dai. Ciao Gianni, Pierpaolo, Adriano, Bombolo e chi ci sta? Ah, Mario sta caricando e anda bene, bene, dai, ciao a tutti. Ciao Falchetto, buonanotte e buon trabocco per domani, avanti Pierpaolo per far girare. Ciao Giuseppe, ci riascoltiamo tutto domani, buona carica e buon tutto, buona giornata per domani, dai. Si è già partito, ciao Giuseppe, buona notte, buon trappacco per domani. Ha chiamato Falche. Ciao Giuseppe, buonanotte. Di fattura a un mezzo, ma lo sento male per farlo, un massaggio, una compresa di modulazione. Trappando a morte il gruppo. papa, andava a vedere. Quella che è questa, e l'altra radio non è quella di oggi anche, tra l'altro, eh. Ah, si sento chiaro, chiaro, cosa hai fatto? No, cosa hai fatto tu, lui? Mettere il combinente. Io non gli ho fatto nulla. Io non ho fatto niente, sta uscendo bene come sta uscendo bene prima. Saliamo sopra. È arrivato, ecco. Giriamo la manopola e andiamo nei canali sopra, io. Chi è arrivato? Il portantista. E dove? Non lo vedo uno smitterlo. Sa, devi dire a Pierpaolo e mette la portante e non gli fa ascoltare a noi, a picco. Ah, sempre quello là dell'anno scorso, di 2 anni fa, che palle. Ma due calci in culo, no, Sei scemo di guerra. Zia, cosa vuoi fare? Cioè, hai un cazzuraggio. Non lo so, e non che mi interessa, poi due calci in culo. Circa un anno e mezzo sta cosa, così qua. Quattro calci in culo, non li ho messi ancora piazzate, che palle. Non fa, Adria, c'è Riccia che gli ricudi, è Marco. No, sembra che non esista le leggi, sembra che non esista la polizia postale, allora. Esiste. Esiste, ma bisogna pagarla. L'interventore scomposto bisogna pagarla. È profumatamente. Anche quello è vero. Effettivamente, anche quello è vero. E allora ci sono anche calci in culo. Sto vedendo un ciaffo già una busta, cosa deve fa? Se non comprendi, è peggio di la brida. Per Paolo, io canale 45 tutti quanti. Si piglia la muffa e si cancareggia. 45, dai.